Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 25 aprile, il sole in regione è sorto alle 6.04 e tramonterà alle 20.07. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Il progetto di un grande parco fotovoltaico nella Bassa Friulana ha riportato all'attualità il dibattito sul consumo di suolo, che vede la nostra regione ai primi posti in Italia. Dibattito con prese di posizione e proposte di Legambiente. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare al corsivo di Enos Costantini, che vuol riabilitare nespoli e nespole per i nostri orti e giardini. Che fare per ottenere qualche ristoro danni dopo le gelate di inizio aprile? Le risposte nella rubrica delle normative. Qui seguirà la prima puntata dedicata al noce, pianta storicamente diffusa anche in regione. Come per il cacao, di cui vi abbiamo già parlato, anche la coltivazione intensiva del caffè contribuisce alla deforestazione. Ce ne occupiamo nella rubrica dei cambiamenti climatici, per passare a quella dell'università, con al centro un'indagine dell'Ateneo di Udine sull'agricoltura di precisione. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Siamo tra le prime regioni d'Italia in fatto di consumo di suolo, un argomento che è ritornato in questi giorni d'attualità con una protesta di Legambiente contro l'ipotesi di creare nella Bassa un grande parco fotovoltaico. Questa è solo l'occasione per tornare su un tema annoso e decidere che cosa si deve fare in questo ambito molto delicato. Ne parliamo oggi con Emilio Gottardo di Legambiente. Innanzitutto un po' di dati su questo consumo di suolo. Allora, il Friuli Venezia Giulia ha un triste primato perché il consumo di suolo per abitante in effetti è il primo in Italia, 519 metri quadrati contro una media nazionale di 354. Peraltro la nostra regione è anche fra le più alte per consumo di suolo a livello regionale, cioè in rapporto al territorio, alla superficie della regione, ci posizioniamo al 7° posto con ben un 8% di territorio consumato, cioè vuol dire territorio su cui non si potrà più tornare a fare agricoltura o altre cose di tipo ambientale legate all'ambiente. E voglio ricordare che il suolo è un bene, una risorsa naturale non rinnovabile, quindi una volta che lo abbiamo malmenato, maltrattato, purtroppo non possiamo tornare indietro se non aspettando qualche secolo. Il problema poi inoltre è che noi continuiamo a consumare suolo. Ecco, negli ultimi 7 anni, dal 2012 al 2019, in regione si sono consumati il 2%, cioè 1300 ettari aggiuntivi a quelli già consumati. Questo significa un trend che ci deve mettere un allarme e in questa partita dell'attenzione, dell'allarme e del contrasto al consumo di suolo, un gioco fondamentale lo giocano proprio i parchi fotovoltaici. Ecco, siamo arrivati al dunque. Come si può far convivere i problemi del consumo di territorio e del consumo di suolo e le nuove esigenze di produzione energetica, quella che chiamiamo green o rinnovabile? Ovviamente Legambiente non è contraria al fotovoltaico come tecnologia per favorire il transito, la transizione dalle fossili alle rinnovabili. Però non possiamo neppure stare a guardare che le cose avvengano e lasciare che ci sia un'aggressione sconsiderata, no, del territorio, in particolare di quello agricolo, cosa che è già avvenuta e che la vicenda di San Giorgio di Nogaro ripropone in maniera importante, urgente. Ecco, ricordiamo che c'è un progetto proprio a San Giorgio di Nogaro di creazione, sì, di un grande parco, sì, fotovoltaico. Sì, 88 megawatt di produzione, fra l'altro si affianca un altro a Pradamano di 16 ettari con altri 8,2 megawatt di produzione, quindi con quello che è stato approvato dal governo Recovery Plan di un grande programma di transizione ecologica, dobbiamo attenderci adesso una aggressione o comunque un grande sviluppo di queste presenze, di queste richieste di installazione di impianti sul territorio. Quindi non si può prescindere dal fatto che ci sia anche un utilizzo del territorio agricolo per gli impianti fotovoltaici perché ne abbiamo bisogno, ma questo non può avvenire in maniera sconsiderata. Abbiamo calcolato che per la nostra regione servono circa 9.000 ettari di suolo agricolo, cioè di suoli diversi dai tetti, dai capannoni, dalle caserme, dalle discariche, dalle aree industriali abbandonate, eccetera, eccetera, e che ipotizzando di occuparle tutte, ci serve ancora della superficie. E quindi noi abbiamo elaborato una proposta, un'idea che ovviamente è già stata anche sperimentata con buone pratiche in Italia, in Europa, per cui il fotovoltaico, i parchi fotovoltaici, bisogna non metterli a terra ma metterli in alto, si possono mettere a una certa altezza sul suolo in modo da consentire l'uso della campagna per fare agricoltura o per fare allevamento. Erano così popolari da finire anche nei proverbi. Ora le nespole sono tra i frutti dimenticati, così come il nespolo che Enos Costantini vuole rivalutare in un'ottica di giardini e orti nostrani. Sarà una questione di gusti, di cultura, di costume o di interesse dei vivaisti, che so, però continuo a non capire tutte quelle piante sempreverdi, alberi, arbusti e cespugli assessuati, senza fiori né frutti, che infestano i giardini delle villette monofamiliari, così come i micro gardens delle case a schiera. Il risultato è un funereo effetto cimiteriale, per non dire ambientazione horror, dove invece dovrebbero esserci gioiosi fiori e frutti in technicolor. Eppure la nostra storia, anche recente, è ricca di alberi, alberelli, arbusti e cespugli con fiori e con frutti. Fra i tanti citiamo il nespolo. Non quello del Giappone, bensì quello che Linneo ha chiamato Mespilus germanica. Non è affatto originario della Germania, ma del Caucaso e delle rive meridionali del Mar Nero e del Mar Caspio. In Europa si è diffuso al tempo dei Romani e poi ha avuto un discreto successo di critica di pubblico, sia come pianta da frutto che da ornamento, e ciò fino al secolo scorso, quando è stato dimenticato. Il fiore è bianco ed è bello, il frutto è particolare perché è commestibile in seguito ad ammezzimento, par furlan alla dimorestasi. Il proverbio italiano dice che con la paglia e col tempo maturano anche le nespole. La pazienza e la paglia non sono di quest'epoca, ma le nespole ammezziscono pure sull'albero durante l'inverno. E può essere una soddisfazione degustarle dopo averle portate a temperatura ambiente. Non è un sapore da supermercato, è un sapore di una volta. Il documento più probante della coltivazione del nespolo in Friuli è Nespoledo, nome di un paese in comune di Lestizza, dove spero che, dopo questa trasmissione, ogni famiglia ne voglia piantare uno in giardino. L'aspetto è gradevole, si può allevare ad alberello impalcato basso, dandogli la forma calice, oppure lasciarlo libero, tutt'al più con qualche accorgimento per indirizzare i rami principali. Vi sono varietà a frutto grosso e mi dicono anche varietà senza semi, che però non ho mai incontrato. Ora che gli uccelli non sono più una nostra fonte proteica, un pensiero andrà anche all'avifauna frugivora, che d'inverno manca di cibarie. I merli del circondario ricambieranno con romantiche serenate primaverili. La gelata nella notte tra il 7 e l'8 aprile ha provocato danni significativi alle colture anche nella nostra regione. Con Marco Maligion, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo cosa dicono le norme in proposito e gli eventuali ristori dei danni. Eh sì, la conta dei danni è ancora in corso, ma in Friuli Venezia Giulia si parla già di qualche decina di milioni di euro, prevalentemente su fruttiferi, kiwi, pesco, melo, pero, albicocco, ciliegio, in misura più limitata sulla vite e solo per le varietà più precoci. Ci sono stati danni ingenti anche su asparagi, anche se, almeno per quelli bianchi, ci risulta che la raccolta sia ripresa nella settimana successiva alla gelata. Per quanto riguarda i semi nativi, abbiamo segnalazioni di danni su colza. Il Fondo di Solidarietà Nazionale può intervenire? Per quanto riguarda i ristori dei danni, bisogna fare sempre riferimento al decreto legislativo 102 del 2004, che prevede interventi compensativi solo nel caso di danni non inseriti nel piano assicurativo agricolo. Di fatto, il gelobrina è proprio una delle avversità catastrofali coperte da polizze agevolate, quindi, in linea di principio, il Fondo di Solidarietà non potrebbe intervenire. Perché usiamo il condizionale? È perché esistono situazioni eccezionali per estensione e gravità degli eventi nelle quali è opportuno superare i vincoli previsti dalla norma citata. E questo presuppone da parte del Ministero l'adozione di uno specifico provvedimento di deroga con delimitazioni delle aree entro le quali però bisogna dimostrare che l'intera produzione agricola ha subito un danno superiore al 30%. Si tratta ora di capire se la gelata fra il 7 e l'8 di aprile abbia causato perdite tali da giustificare la richiesta dello stato di calamità e, come già detto, le verifiche sono ancora in corso. C'è chi si lamenta che l'assicurazione, ancorché agevolata, costa ancora troppo. Che sia un costo è fuor di dubbio, ma il troppo è una cosa relativa. È proprio in situazioni come queste che si dimostra la sua utilità, se non addirittura la necessità. Bisogna sempre ricordare che l'orientamento comunitario sulla gestione del rischio in agricoltura è quella di considerare lo strumento assicurativo come un vero e proprio investimento. Non a caso, anche nella prossima PAC, i piani assicurativi e i fondi mutualistici saranno riproposti all'interno del piano di sviluppo rurale. Piante e relativi frutti erano diffusissimi anche in Friuli Venezia Giulia e ora si studia come reintrodurre vecchie varietà locali, sapendo però che non potranno competere con quelle americane e francese. Il professor Raffaele Testolini ci parla di noci. Sua Maestà il noce. Anche il noce è una coltura interessante per il Friuli. È una di quelle colture che forse non rendono come coltivare ortaggi o fiori, ma Simpri mior de blave, tanto per ribadire il concetto che se il Friuli avesse sviluppato meno cereali e zootecnia e più orticoltura e frutticoltura, forse gli agricoltori avrebbero qualche euro di più in tasca. Il Friuli è ricco di noci. Un'esplorazione condotta dall'Università di Udine negli anni scorsi ha trovato una varietà incredibile. Una grande biodiversità, si direbbe con un'espressione tanto inflazionata quanto banale. Una trentina di queste piante di noci, le migliori, sono in moltiplicazione a cura dell'ERSA, che le diffonderà nei prossimi anni presso gli hobbisti. Potrebbe sembrare utile utilizzare il meglio di questo materiale per promuovere la coltivazione del noce in regione. Purtroppo sarebbe una scelta d'affezione, ma non economica. Le varietà di noce moderne, selezionate dagli americani e dai francesi, producono più del doppio di qualsiasi varietà nazionale o locale per il semplice fatto che non producono solo all'apice dei rami, ma anche sui getti laterali. Senza addentrarci nei particolari e rinunciando per una volta, purtroppo, al sentimento, vediamo nella prossima puntata come si può fare un buon impianto di noce che dia reddito. Dopo il cacao, oggi a Vita nei Campi è la volta del caffè, la cui produzione incide in maniera significativa alla deforestazione e a cascata sui cambiamenti climatici, come ci racconta in questo contributo Silvia Stefanelli. Continuiamo ad affrontare il tema dell'agricoltura e dei cambiamenti climatici, parlando dei prodotti di uso quotidiano legati alla deforestazione. Tra questi c'è il caffè, di cui nel mondo si bevono 2 miliardi e mezzo di tazze al giorno, e l'Italia è proprio il paese simbolo di questo rito quotidiano, dove l'Europa è anche il più grande mercato al mondo di caffè. Ma dove nascono i problemi? Dal fatto che l'aumento della domanda di caffè per soddisfare la richiesta globale dovrà triplicare, aumentando la pressione sulle foreste e alla fine sulla deforestazione. La produzione del caffè è diffusa in molti paesi, tra cui principalmente Brasile, Vietnam, Colombia, Messico, Etiopia. Qualche anno fa ho visitato le alture centrali del Vietnam, dove ho constatato con i miei occhi gli effetti della coltivazione del caffè sul cambio del paesaggio. Dal 2000 all'attualità si sono persi circa il 27% di terreni forestali. Il fatto è che il caffè è una coltura particolare che predilige una leggera ombra o addirittura una copertura arborea e così avrebbe un impatto minimo sull'ecosistema, ma è stata sostituita da immense piantagioni intensive, più redditizie ma meno sostenibili. Se un tempo il caffè si coltivava ai margini degli ambienti forestali, oggi invece si abbattono foreste per produrre i preziosi chicchi. Inoltre, nei prossimi anni, la coltivazione del caffè, in particolare la varietà arabica, molto sensibile alle variazioni climatiche, sarà molto impattata, spingendo la coltivazione in aree meno idonee, a maggiore quota e con aumento del rischio di deforestazione. In aggiunta a questo, i prezzi del caffè sono scesi negli ultimi anni, per effetto della concentrazione del mercato in grossi players e a scapito del reddito dei piccoli produttori. In Vietnam solo il 50% dei produttori di caffè guadagna abbastanza per la sussistenza. Ma che cosa possiamo fare come consumatori perché la tazzina non sia troppo amara per l'ambiente e il clima? Orientare la scelta verso marche con certificazioni di sostenibilità della filiera. Preferire caffè che provengono da coltivazioni in foresta, sotto copertura, che hanno consentito produzioni meno intensive e un reddito multiplo ai coltivatori. Infine, chiedere trasparenza nelle pratiche di coltivazione, nel rispetto di un salario minimo e dei diritti dei coltivatori, ai grandi marchi della produzione e distribuzione in Italia. Per la rubrica dell'Università e della Ricerca, oggi con la professoressa Stefania Troiano, che all'Ateneo Udinese insegna economia ambientale delle risorse nell'ambito di un corso di laurea che prevede il doppio titolo italo-austriaco con l'Università di Graz, parliamo di agricoltura di precisione, di un'indagine che ha svolto presso gli imprenditori agricoli. Quali le evidenze, professoressa? Sì, abbiamo realizzato nell'ambito di questo studio un'indagine perché volevamo capire quale fosse il livello di conoscenza e di utilizzo presso gli imprenditori agricoli delle tecnologie innovative. Allora, siamo andati proprio ad intervistare, grazie anche alla dottoressa Gaspardo, gli imprenditori agricoli presso l'EIMA, l'Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio, e poi abbiamo cercato di raccogliere anche opinioni online. Abbiamo raccolto 471 questionari che ci hanno evidenziato proprio il grado di diffusione e di conoscenza, che devo dire è piuttosto, come dire, rilevante da un lato. Però dall'altro lato abbiamo anche notato come ci sia una scarsa presenza di tecnologie innovative all'interno delle imprese. Una definizione di agricoltura di precisione. Allora, in realtà l'agricoltura di precisione abbraccia molte tecnologie. Noi ci siamo in particolare e abbiamo chiesto la presenza di guida automatica, di macchine interconnesse, di rilevazione di dati in campo, di mappatura, di telerilevamento, sensori, isobas, e a questo proposito proprio abbiamo evidenziato come solo in una impresa agricola tra i 471 rispondenti ci siano tutte queste tecnologie, mentre 82 intervistati ci hanno detto che utilizzano la guida automatica. Quindi, come dicevo, da un lato c'è una grande conoscenza, un grande interesse da parte degli imprenditori agricoli nei confronti di queste tecnologie. Dall'altro lato, però, la presenza è ancora piuttosto scarna. La problematica principale che lo studio ha messo in evidenza è il fatto che gli intervistati percepiscono come molto costosa l'agricoltura di precisione. E nonostante sarebbero ben disponibili, ecco, ad introdurla, ma con un aiuto. Abbiamo chiesto, ecco, che cosa significa per loro questo aiuto, e ci hanno detto che gli incentivi pubblici, così come il supporto e l'assistenza tecnica da parte dei rivenditori, ecco, potrebbero essere uno stimolo all'acquisto, all'introduzione di tecnologie innovative all'interno delle loro aziende. E con Amos D'Antoni è la volta dell'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 23,60 e 23,80 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,90 e 22,20, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 19,30 e 19,80. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7 euro e 10 centesimi e il frumento di 2 euro e 20 il quintale. Contrattazioni discrete al Tolfotticolo di Udine con prezzi in movimento. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,30 euro il chilo IVA esclusa, i cavoli tra 1,30 e 1,60, le zucchine da 1,40 euro, le melanzane tonde da 1,20 e 1,30, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2,90 e 3,30, i pomodori in grappolo tra 1,30 e 1,40, il radicchio rosso tondo tra 2,30 e 2,40, quello di Treviso precoce tra 2,40 e 2,50, le spinaci e spinacina 1,30 e 1,50, le fragole extra italiane da 5 a 6 euro il chilo, le arance tarocco da 1,30 a 2,50, i meloni tra 2 e 2,50. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo non favorevoli, temperature fredde sera e mattina e il persistere del Covid, i prezzi sono leggermente lievitati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 22 a 35 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 7 a 25, le mazzancolle da 27 a 39, i calamari e calamaretti da 18 a 28, le canoce da 5 a 15. Le capesante da 11 a 15, i latterini da 9 a 10, i folpi da 7 a 11 e i gamberetti da 13 a 16. Infine nel settore degli aviconicoli si segnalano cenni di pesantezza con prezzi sofferenti. I polli a terra vengono pagati tra 1,02 e 1,04 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,45 e 2,49, le faraone tra 2,47 e 2,57, i tacchini maschi tra 1,26 e 1,28, i conigli oltre 2 kg e mezzo in calo tra 1,80 e 1,86 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,30 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'Arpa Osmer, Livio Stefanuto, diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Una depressione sui paesi baltici e un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale fanno fluire sull'Italia correnti secche da nord-ovest. Da lunedì affluiranno invece correnti più umide da sud-ovest. Lunedì avremo cielo nuvoloso o coperto. Sui monti e sull'alta pianura saranno probabili deboli piogge sparse alternate a fasi di tempo migliore. Possibile qualche locale breve pioggia anche sulle altre zone, ma con bassa probabilità. Quota neve sui 1500 metri circa, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata in calo nel pomeriggio. Temperature massime sui 16-17 gradi. Tra martedì e mercoledì un debole fronte mediterraneo interesserà l'Italia. Avremo cielo coperto, con piogge in genere deboli o moderate, forse localmente più abbondanti sulle prealpi e sulla costa. Cota neve sui 1200-1500, su pianure costa soffierà bora moderata. Mercoledì mattina ancora coperto, con residui e precipitazioni sulle zone centro-orientali e bora moderata sulla costa. Dal pomeriggio variabilità, brezza e la possibilità di qualche locale rovescio sulle prealpi. Tra giovedì e venerdì, un fronte freddo atlantico accompagnato da correnti umide meridionali dei bassi strati interesserà il nord Italia. Avremo piogge intense in montagna, specie sulle prealpi, abbondanti in pianura, moderate sulla costa, dove soffierà scirocco. Le temperature in pianura varieranno da 10 a 18 gradi. Sabato entrerà bora sulla costa, ma la presenza di aria fredda in quota potrebbe portare ancora un po' di instabilità e la possibilità di qualche temporale pomeridiano. Domenica, promontorio anticiclonico con tempo bello e stabile e temperature massime in aumento. Buona settimana! Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: se al plu fel prim di mai, blave non si fai, ovvero se piove il primo maggio non si farà grano turco. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.